Tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Luca Rinaldi in redazione, Fabio Cantadori in regia per questa giornata che si concluderà con gli impegni di Europa League della Juventus, 2-1 all'andata in Austria, da difendere e conservare a Torino contro lo Sturm Graz. Del Napoli, che gioca l'impegno più difficile a Elfsborg in erba sintetica, il terreno degli svedesi, 1-0 per il Napoli all'andata. Il Palermo parte da un confortante 3-0 con gli sloveni del Maribor. Alle 18 però c'è l'attesissimo sorteggio della prima fase della Champions League, già orfana di alcune squadre molto attese. Ieri è uscito malamente, clamorosamente, lo Zenit di San Pietroburgo, e con Spalletti non aveva mai perso e non aveva mai subito più di un gol in una partita, fuori contro l'Auxerre, già eliminato nel giorno precedente. Invece il Siviglia dallo Sporting Braga sono le due eliminazioni più clamorose e inattese. È però anche inevitabilmente un'altra giornata, forse la giornata di Zlatan Ibrahimovic. Chissà con quale maglia giocherà la Champions League, se con quella del Barcellona o con quella del Milan. Chissà se giocherà la Champions League, perché il Manchester City, secondo alcuni, pochi in realtà, è ancora parzialmente in corsa. Quel Ibrahimovic che Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport descrive nudo, libero, ricoperto d'oro, così gli piace stare, mezzo bosniaco, mezzo croato, cresciuto in un ghetto svedese tra bambini di tutte le razze, si è allenato a stare con tutti e con nessuno, è la bandiera di se stesso, come confermano le sue parole. Questa di ieri sera al termine del trofeo Gamper, vinto dal Barça ai rigori, con una festa e una foto finale in cui c'era Ronaldinho, ma non lui. Come si dice, lo tengo come un complimenti e complimento, però fino adesso non c'è un d'accordo con nessuno, e come ho detto prima che ce l'ho contratto con Barcellona e sono un giocatore di Barcellona. Io non lo so cosa è successo qua, chi tiene problema, chi ce l'ha problema o no, chi mi vuole vendere o no, però credo che mister che non mi chiede qua, non mi parla per 6 mesi, in 6 mesi mi ha parlato 2 volte e non lo so quale problema è, non ce l'ho risposte, però io ho firmato per Barcellona e sono un giocatore di Barcellona. Il Mundo Deportivo titola in questo momento sin acuerdo, senza accordo. Rosell, Galliani e Raiola hanno chiuso la riunione di questo giovedì senza concretizzare al momento il passaggio di Ibrahimovic al Milan. La predisposizione da entrambe le parti è buona e domani proseguiranno le conversazioni. Per capire cosa significa quello che sta succedendo a Barcellona, per capire come la squadra che ha vinto 2 anni fa la Champions League si appresta ad affrontare questa stagione, per capire come l'uomo che ha vinto l'anno scorso la Champions League prova a interrompere il dominio blaugrana in Spagna, sono collegati con noi due colleghi e amici di Radio 24, Cristina Cubero, collega del Mondo Deportivo di Barcellona, e Filippo Maria Ricci, collega della Gazzetta dello Sport, inviato e corrispondente dalla Spagna. Buon pomeriggio Cristina, buon pomeriggio Filippo. Ciao, ciao a tutti. Buon pomeriggio. Dunque, cominciamo col capire, Cristina, quanto è comune e quanto è normale per voi avere a che fare con una situazione di questo tipo. Avete vissuto a Barcellona le vicende e i percorsi di grandi atleti, di grandi professionisti, di grandi campioni, alcuni anche molto umorali, alcuni se ne sono andati in maniera anche scomoda per loro e per come poi sono stati ricevuti, penso su tutti a Luis Figo, ma quello che si è creato attorno a Ibrahimovic ha dei precedenti a Barcellona? No, non con questo speciale carattere di Ibrahimovic, perché sì che veramente la storia, si sono andati i grandi campioni come Ronaldo, il fenomeno, dopo un anno in Barcellona, ma veramente il caso di Ibrahimovic è molto speciale, perché è la prima volta che un grande campione non si è trovato bene negli spogliatori. Il problema con questo di Ibrahimovic, non entre Ibrahimovic e Pep Guardiola, è un problema di rapporto tra Ibrahimovic e la cultura nostra. La cultura nostra è anche la cultura, non soltanto calcistica, non un problema sportivo, sino un problema di vita. Ibrahimovic non ha capito che significa Barcellona, non ha capito come si comporta la gente qua, non ha capito che significa essere calciatore di Barcellona, non ha capito che qua ci sono dei valori che si devono rispettare. e non ha capito del punto di vista di persona, perché questo Guardiola lo racconta molto bene. Non è un problema del Ibrahimovic calciatore, che tutti sappiamo che è un grande calciatore anche con difficoltà per il ruolo che ha bisogno il Barcellona come dal punto di vista calcistico. È il problema dell'Ibrahimovic persona, è il problema dell'Ibrahimovic che arriva all'allenamento con la sua Ferrari Ross nuova che ha costato 800.000 euro, e non capisci che non è il momento per una Ferrari quando la gente non ha lavoro, no? È un problema dell'Ibrahimovic che col rapporto con il resto del calciatore crede che lui è il più grande, che crede che lui è il più grande calciatore, anche che i resti non sono al suo livello, e non capisci che qua questo non interessa a nessuno. Filippo, perché il più grande è Messi, sì. E dopo perché sono 8 campioni del mondo in questo spogliatoio. Filippo, tu che hai seguito Ibrahimovic nel suo percorso italiano senza bandiere, appunto dalla Juve al Milan per una notte, quella del preliminare di Belgrado del 2007, e poi all'Inter e poi via al Barcellona a baciare la maglia, tu che conosci però anche la realtà della Spagna e di Barcellona e della Catalogna, ti aspettavi tutte queste difficoltà e questo esito così clamoroso e conflittuale? No, assolutamente. Io dico una cosa però, Cristina parla di lui non ha capito la cultura, non ha capito il club, questo c'è una parte di verità, però bisogna dire due cose. Uno, che non è che gli altri giocatori vanno in metropolitana all'allenamento, non è un problema di presentarsi con la Ferrari quando diciamo non ci sono i soldi e c'è la crisi. Il problema è che tutto questo è molto molto tecnico, e se ci fate caso i problemi nascono in un momento molto preciso, quando Ibrahimovic viene messo in panchina e il Barcellona vince la Liga giocando con Bojan. E è lì che nascono i conflitti, perché fino ad allora, se noi stiamo a sentire quello che ci diceva Pep, Guardiola, secondo me anche con qualche adesso con qualche sospetto, le cose andavano molto bene. Pep diceva che Ibra era un grande giocatore, che non c'erano problemi, che tutto andava per il meglio. Poi nella prima conferenza stampa, un po' diciamo dove emerge un po' il conflitto, ci dice: ah, quest'anno Ibrahimovic si sta allenando molto meglio. Allora uno dice: delle due l'una, o l'anno scorso ci prendevi in giro, oppure non è stata detta tutta la verità. Qual è il problema? Il problema è che nasce un conflitto tecnico. Ibrahimovic è un giocatore che è stato è il giocatore più caro nella storia del Barcellona, guadagna 12 milioni di euro netti all'anno, ed è chiaro che tenerlo in panchina è un problema. Però il problema è tattico. Ibrahimovic non si è inserito, prima ancora che nella città e nella cultura catalana, non si è inserito nel gioco del Barcellona. È da lì che nascono i problemi. Se Ibrahimovic non avesse giocato contro l'Inter, il Barcellona probabilmente stava festeggiando un'altra Champions, perché vuol dire, è stato lui la grande zavorra di quella squadra. Non si è inserito, e adesso cosa fare con questo ragazzo che, uno, non ha bandiere, due, guadagna tantissimi soldi. Questo è il vero problema. Torniamo tra un istante, ci sono già ascoltatori all'800 24 00 24, messaggi sms al 349 238 6666, per capire ancora qualcosa di più anche di Pep Guardiola, che l'anno scorso parlò di feeling nel momento in cui ci fu lo scambio Eto'o-Ibrahimovic, e anche per capire se Mourinho ha individuato qualche falla di mentalità oppure di resistenza limitata alle pressioni a Barcellona, nel momento in cui le pressioni sono arrivate dall'esterno, in questo caso dalla gente del giocatore, e quanto invece il Barça si sente forte dei suoi campioni del mondo e dell'ultimo acquisto David Villa. Un po' di pazienza agli ascoltatori all'800 24 00 24 e a quelli che hanno scritto al 349 238 6666 con sms. Cristina Cubero, giornalista del Mondo Deportivo di Barcellona, in collegamento con noi, con Filippo Maria Ricci, il nostro corrispondente dalla Spagna per la Gazzetta dello Sport, naturalmente è fisso amico costante di Radio 24. Abbiamo anticipato alcuni dei temi sull'affare e l'intrigo Ibrahimovic. Cristina, è un problema tecnico, diceva Filippo Maria Ricci. Lui diceva: nel finale della Liga si capisce che il Barça vince senza Ibra, che Messi, come dite voi, da falso centravanti, da falso numero 9, ha trovato la sua sublimazione. C'entra molto anche la doppia partita con l'Inter. È vero, come dice qualcuno, che a San Siro tra Messi e Ibra sono volate parole grosse per l'anarchia e il disinteresse quasi in campo di Ibrahimovic all'andata in semifinale. Sì, però veramente non è un problema. Se fosse un problema tecnico, ti dico che Guardiola farebbe tutto per inserirlo dentro la squadra. Non è un problema tecnico. Quello che io ti dico, perché io conosco moltissimo Guardiola da 15 anni e conosco il giorno giorno del Barcellona, non è un problema tecnico. Una cosa è che Ibrahimovic, veramente con Messi, si gioca Messi de falso centravanti, deve fare un altro ruolo. Ma questo ruolo, con Villa in campo, perché ricordate il Villa che ha fatto il Mondiale vicino a Fernando Torres, con un centravanti alto, grande, si poteva fare con Ibrahimovic. De fatto, Guardiola ha pianificato in dicembre l'anno scorso questa stazione prossima con Villa, Ibrahimovic e Messi, giocando anche con Pedro, perché si la pensava di fare questo anno vincendo Champions, Scudetto, tutto. Veramente questo era nella sua testa. Tutto comincia a cambiare quando dopo le vacanze di Natale Ibrahimovic arriva con la faccia bruciata, perché è andato a schiare, non a schiare proprio, ma in un posto di neve, no? E non si è guardato il suo fisico, no? Ha cominciato i problemi fisici, perché veramente dopo, due settimane dopo, per voi non è importante il dettaglio della Ferrari, perché voi non vi siete qua in Barcellona. Qua c'è avuto un cacciatore, Rivaldo, che si è comprato una Ferrari e il giorno dopo l'ha ritornato. Perché? Perché questo animo esibizionista non esiste qua. Non esiste qua in questa nostra città, molto diversa da quella di Madrid, dove abita Filippo, molto diversa. Qua non c'è un cacciatore con una Ferrari, non ci sono. Non perché la Ferrari non sia fantastica, sicuramente la migliore macchina, sino perché questa città ha un altro stile di vita. Filippo, non l'ha capito. Filippo, Mourinho, Madrid e Real Madrid, come stanno vivendo questo momento? Vorrebbero un Barcellona con Ibrahimovic, senza Ibrahimovic? Hanno tanti problemi a cui pensare già di loro, e quindi non è il caso che si mettano a star dietro anche a quello che succede a Barcellona? Guarda, io gli ho chiesto proprio l'altra sera a Mourinho, è stata proprio la mia domanda, dico: ma a voi cambia qualcosa il Barcellona con Ibro senza Ibro? Ho detto no, a noi non cambia nulla, ovviamente c'è un grande giocatore che qua non si è ambientato, quindi in Italia ha trovato la sua, stava meglio. Se se ne va o non se ne va, noi li affronteremo, però per noi non cambia nulla. Secondo me Mourinho è molto concentrato su quella che è la sua realtà. Però io vorrei rispondere a Cristina, perché il problema torna ad essere tecnico, e ti spiego perché. Perché quando il problema è tecnico, quando lui non gioca e va in panchina, è lì che poi dopo subentra il carattere. Quindi la nascita è tecnica, che quello, diciamo, non gioca bene e devono tenerlo in panchina. E dopodiché, col carattere di Ibra, è chiaro che scoppiano poi i casini. Il discorso qual è? Tu mi dici, si vogliono giocare con Messi, Ibra e Villa, ma se tutta l'ultima parte della stagione giocavano col 4-2-3-1, non c'è bisogno di abitare a Barcellona per vederlo, a parte che le partite le vedo lo stesso e vado tante volte a Barcellona. È chiaro che era cambiato il modulo. Poi, con l'arrivo di Villa, dove lo mettiamo Ibra? Ibra lo mettiamo in panchina. E non ci può stare. Poi allora è chiaro che, infatti, poi guarda un po' cosa succede. Alla prima occasione Ibra esplode, e adesso vediamo come se la cavano. Quindi la nascita, io dico, la nascita del problema è tecnica, e poi c'è un problema di carattere, di mancata. Però se lui diciamo resta lì, vedrai che, come ha detto, poi magari si possono trovare una soluzione. Però è chiaro che inizialmente un giocatore così, come poi va ripetendo a più riprese il suo procuratore Raiola, non può stare in panchina. Non volevo, iniziare il classico in anticipo, non era mia intenzione, però. No, ma ti dico, il problema è che non andate in panchina, io vivo solo a Madrid. Il problema è questo, il problema è che tutti i problemi cominciano per un rapporto di lui con il resto, ma non per una questione tecnica. Bojan non è migliore che Ibrahimovic, può fare anche un altro ruolo. Se fosse accettato, io ti dico, Ronaldinho ieri, io sono stata a Milano per fare l'intervista a Ronaldinho, che quando parlava di Ibrahimovic, l'intervista che avete visto tutti, no? Sì. Ronaldinho ieri, quando è tornato in spogliatoio, tutti lo amavano, tutti. Ibrahimovic quando partirà al Milan, e non avrà nessuno che piange per lui, nessuno, soltanto forse Maxwell, che è quello amico suo anche dell'Inter, no? Ma no, veramente non ha rapporto con nessuno. E del suo manager? Sì, voi volete liberare più del manager, voi nel senso a Barcellona naturalmente, più del manager o del giocatore? Perché anche la presenza della gente è abbastanza impegnativa. La presenza della gente qua in Barcellona? Sì, di Raiola, di Mino Raiola, la gente sì, di, no, ma, di Ibrahimovic. Ma la gente è pazzesca, è una cosa terribile. A me mi vergognisce veramente le persone come queste, no? Che dicono le cose che ha detto anche di Guardiola. Sì. Un infermo mentale, no? Così lo ha definito. Sì, ha detto che era un infermo mentale, bueno, ha detto che non puoi comprare un Rolls Royce dopo non avere la benzina per... Bueno, dice sono questi personaggi che per me devono sparire dal calcio, no? Anche vedremo che fine fa Balotelli, poverino, no? Dove l'hanno lasciato. Ma sono questi personaggi che terribilmente esistono nel mondo del calcio e che a Ibra anche l'ha fatto... Credo l'ha fatto guadagnare molti soldi, questo è vero, ma l'ha fatto molto male, perché veramente Barcellona era un posto favoloso per lui per arrivare a essere una volta il migliore del mondo. Lui ha creduto questo a Ibra quando è venuto, no? Si è trovato dopo che veramente lui non era come è successo negli ultimi anni della sua vita, no? Che veramente era il protagonista assoluto. Qua il protagonista assoluto non è lui. Il protagonista assoluto è Messi e Guardiola, e anche ti dirò sono i catalani o sì. Sono gli otto spagnoli che hanno vinto il mondiale, no? Cristina, per chiudere ti salutiamo, poi chiedo a Filippo Mariarici di rimanere ancora in compagnia nostra qualche istante in più per affrontare in maniera più profonda il tema Real Madrid. Mourinho, che in pochi ce lo possono togliere dalla testa, noi che l'abbiamo conosciuto un po' in questi due anni in Italia, esulta al Camp Nou in mezzo all'arena e già, appunto, secondo noi, sa che sarà l'allenatore della Real Madrid, quindi già in quel momento esulta con il calcolo di mettersi di fronte alla tifoseria del Barcellona. Viene visto come un rivale qualunque, come un nemico un po' più duro. I suoi precedenti in Champions contro il Barcellona creano qualche apprensione o no? Sì, immagina, Mourinho noi lo conosciamo anche molto bene perché ha vissuto con noi 4 anni, sì. Io l'ho conosciuto all'epoca di Robson, l'epoca di Van Gaal, e lui noi lo conosciamo lui molto bene e lui ci conosce a noi molto bene. È l'nemico più terribile, perché sa le nostre debilità come popolo, sa le debilità del Barcellona come squadra e sa come provocare. Lui è veramente una star. Mourinho è intelligentissimo. Mourinho è un tecnico anche che lavora molto bene nella squadra, che a livello tecnico è fantastico, ma soprattutto a livello emozionale è un dio. Veramente è questi allenatori che mai te lo puoi trovare come in fronte, perché è dei grandi del mondo, ma veramente, no? Benissimo. E anche perché è un studioso, sì. ha capito quello per essere più grande si deve prendere tutti i posti, l'ha fatto anche di Barcellona. E sarà un campionato molto molto emozionante e anche una Champions molto emozionante con questo Madrid che ora si è competitivo con lui. Grazie Cristina Cubero, buon lavoro con l'intrigo Ibrahimovic a Barcellona, al Mondo Deportivo, a presto. E ciao Cristina. Filippo Mariarici rimane invece ancora con noi qualche minuto. Si parlava però sui giornali spagnoli, al di là di tutte queste caratteristiche che abbiamo conosciuto di Mourinho in Italia, anche di bostezos, di noia, no? Di sbadigli di noia al Bernabéu l'altra sera nel match della Coppa Bernabéu con il Peñarol. C'è un po' di preoccupazione tra i tifosi del Barça, del Real Madrid, scusa, che amano sempre il calcio molto toccato, molto ballato e palleggiato e spettacolare, di vedere un Real più vicino quello di Capello che ad altri della storia recente? Questo da una parte sì, però qui c'è una fame di vittorie che è infinita, insomma sono 6 anni che escono negli ottavi della Champions, allora da una parte c'è quello che vogliono vendere i giornali, allora sì, questo calcio spettacolare e via dicendo, dall'altra però c'è la fame della gente. Io ero qua quando c'era Capello, a parte che erano partite emozionantissime, perché poi il Real Madrid andava sempre sotto, poi rimontava, sono state partite bellissime. È vero. Però in realtà alla fine la gente vuole la vittoria, vuole spezzare il predominio del Barça. E quindi sì, sanno che con Mourinho non hanno preso un allenatore pirotecnico dal punto di vista offensivo e diciamo del calcio spettacolare, però nello stesso tempo sanno che con lui hanno la possibilità di vincere, e quello è la cosa che è inutile che ci si riempia la bocca con tante teorie, la gente vuole più di tutto. Ascoltiamo qualcosa che ci ricorda Mourinho italiano, poi mi dici in chiusura, prima di salutarci, se ci sono già stati lampi di questo Mourinho e tra quanto invece, nel caso non ci siano stati, i giornalisti spagnoli se li aspettano. A dream job. Il suo è un lavoro da sogno. Non è questo naturalmente il contributo, questo era un brano che proporremo successivamente sul Mourinho che se l'è preso un po' a distanza con Benitez, dovrebbe essere pronto l'altro contributo con Mourinho. Sono alcune delle frasi naturalmente storiche di Mourinho qui in Italia, le sentiremo se riusciremo tecnicamente a ricostruirle. Filippo, c'è già stato qualche show mediatico di Mourinho, poi il profilo è molto basso per ora. No, per ora il profilo è basso. Non ha scelto. Io un po' me l'aspettavo, però ne avevamo anche parlato. Sempre contro tendenza, no? In Inghilterra Mourinho ha scelto un tipo di personaggio. In Italia ne ha scelto un altro. Qui cambia ancora. Mourinho, io sono sicuro che cambierà ancora. Poi adesso vediamo quando poi perde, così insomma vediamo. Però in generale per ora non ha scelto la tattica che aveva scelto in Italia, di un confronto immediato, diretto, continuo, soprattutto con la stampa, no? Con il sistema, tra virgolette. Non lo vedo qui mettersi a fare il gesto delle manette, ecco. Poi dopo magari ci arriverà, però per ora è che lui sa che comunque qui il calcio è visto in maniera differente rispetto all'Italia, e allora si sta adattando. Qui c'è meno esasperazione, meno ansia, meno moviole e via dicendo, per cui lui sa che può anche permettersi un comportamento meno sopra le righe. Quanto c'è stato di lui in sede di mercato, nelle scelte di allontanare Raul e Guti dopo una vita e nell'acquistare giocatori giovani più funzionali al sistema di gioco rispetto al passato? Beh, Guti gli ha messo la croce lui, però dopo che Guti se l'era già messa, nel senso che Guti fa un'intervista in cui dice no, io me ne vado, e dopodiché arriva qua Mourinho e poi dopo dice no vabbè, poi magari ci ripenso, e allora arriva Mourinho e dice no, lui ha detto così, se ne va e punto. E Raul no, lui l'avrebbe anche tenuto, però Raul è così, ha voluto strafare, andarsene allo Schalke, dove avventura che per me finirà malissimo. Perché lui pensa di avere ancora 26-27 anni, in realtà ne ha 34 e l'hanno spremuto, e per cui però insomma quella è stata una scelta di Raul e Mourinho l'ha accettata. Ha una squadra giovanissima, solo due sopra i 30 anni, uno è il secondo portiere, l'altro è Carvalho, è un'età media bassissima. E quindi lui ha scelto di puntare su questi giovani. Bisogna vedere se la scommessa gli riesce, perché comunque il Bernabeu è parecchio Bernabeu, insomma. Bisogna vedere se questi giovani riescono a reggere il miedo escenico. Esatto, bisogna vedere. Esatto, un po' di miedo escenico. Permettimi solo una chiusura su tutta questa storia del Barcellona. Sì. Quello che la ragazza fa fatica ad accettare, permettimi, è che Guardiola ha preso un abbaglio colossale. Guardiola è un fenomeno, nessuno lo può discutere, no? È un mito. Però quando l'anno scorso, proprio di fronte un po', ecco, al miedo del Real Madrid che comprava figurine costosissime, così, il Barcellona si ritrova in difficoltà. Guardiola decide, gli era andata bene con Ronaldinho, gli è andata bene con Deco, li ha scaricati, si sbaglia con Neto, perché la grande differenza, adesso qui si fa il paragone tra quella che qua la chiamano rajada, cioè la grande tirata ieri di Ibra, e la grande tirata di Neto due anni fa, tre anni fa, diciamo quando lui attaccò Rijkaard e Ronaldinho. Sì. Quella di Neto erano parole per il club, molto quasi da catalano, quelle di Ibra invece sono parole per se stesso. E se tu mi dici che mandi via Eto'o per una questione di feeling e per una questione che questo ragazzo è uno potrebbe essere conflittivo nello spogliatoio, e mi prendi uno come Ibra, è chiaro che ti mettevi una bomba a orologeria nello spogliatoio, e la bomba è esplosa, e la scelta è tutta del Pep. Allora, massimo rispetto e grande stima per l'allenatore, in questo caso si è sbagliato, come si è sbagliato con Cigrinski, pagato 25 milioni e rivenduto la metà a 15. Succede, però è chiaro che la cosa è, allora adesso sì, tutti a dare la croce a Ibra, che sicuramente ha le sue colpe e tutto, però non è, le cose si fanno, diciamo, tutti insieme. Grazie Filippo Maria Ricci, a prestissimo. Abbiamo introdotto in maniera piuttosto caliente il sorteggio di Champions League delle 18 con Barcellona e Real protagonisti, il Barça in prima fascia e il Real in seconda, dunque un rivale possibile per tutte le grandi d'Europa, le inglesi Arsenal, Chelsea e Manchester, ma anche le italiane naturalmente Inter e Milan, oltre al Bayern e al Lione che lo ha eliminato nella scorsa edizione agli ottavi di finale. Il Milan è appunto in prima fascia, ci sono diverse avversarie temibili per le nostre squadre, per la Roma ancora di più visto che nella seconda urna. Ci sono però anche diversi ascoltatori all'800 24 00 24, la priorità a loro, poi vi darò anche notizia delle designazioni, le prime della stagione da parte di Stefano Braschi, nuovo designatore della Serie A per la prossima stagione appunto. Fabrizio dalla provincia di Arezzo, prego. Buongiorno, volevo fare due domande. Ma la Juventus sta costruendo una squadra di mezzofondisti per l'Olimpiade di 2012 o una squadra di calcio? Perché l'unico giocatore in grado di giocare a calcio l'ha venduto. Beh, ce ne fossero stati però l'anno scorso di mezzofondisti, qualcosa di meglio si sarebbe visto. Vero, ma insomma, cioè, io credo che Diego sia l'unico in grado di giocare a calcio, perlomeno da quello che si è visto in queste prime amichevoli. La seconda, un dubbio. A partire da Baggio, Miccoli, Giovinco, Palladino, Musu e arrivare a Diego. Del Piero? Esatto, tutti quelli che si mettono in altri record di Del Piero, mi sembra una vedova nera con il giocatore di calcio, lo tocca muore. Ascolta per dargli la risposta, grazie. Vabbè, questo termine è pesante, sicuramente è stato un rivale impegnativo per tutti, ha un credito interminabile con i tifosi, passano gli anni e rischia di essere un ruolo sempre più ingombrante il suo, se lui non accetta di entrare a partita in corso, come del resto ha dovuto accettare gioco forza quando Capello aveva in pugno la squadra nel suo biennio, e già lì Del Piero non era titolare fisso perché i due titolari erano Trezeguet e Ibrahimovic. Quanto a Diego, non siamo in disaccordo sul fatto che abbia qualità tecniche anche superiori a molti suoi compagni, però è un giocatore che rallenta il gioco del Nero, lo vuole molto più rapido e più sbrigativo, e in generale è molto difficile per un giocatore ripetersi e fare anzi molto meglio rispetto al primo anno di grande delusione nello stesso club. Un conto è cambiare club anche nello stesso campionato, nello stesso paese. Riuscire a riscattarsi così dopo un anno tanto deludente è molto molto difficile. La scelta della Juve di cederlo, ancora a maggior ragione di più dopo aver annunciato in pratica che lui era sul mercato, la scelta di farlo andare è a questo punto la soluzione meno dolorosa, anche se costa 10 milioni di minusvalenza e non sono pochi in questo mercato con così poca disponibilità economica per tutti. Nicola da Bari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, io volevo intervenire a proposito e citare anche la giornalista catalana e parlando del livello della qualità dell'uomo Ibrahimovic e fare il collegamento che volevo fare io con la dirigenza del Milan, che ormai evidentemente segna il passo dopo 25 anni di splendore, perché accettare dopo Riccardo Kakà, signore, dopo Andrei Shevchenko, dopo Marco Van Basten, dopo Boban, dopo tanti giocatori che avevano un comportamento interno allo spogliatoio ed esterno impeccabile, accettare una persona come Ibrahimovic dimostra che ormai la dirigenza del Milan è pronta per lasciare a qualcun altro, mi auguro al più presto a qualcuno. Sì, beh, il discorso che lei fa è molto deciso. Sicuramente, al di là delle valutazioni umane che possiamo fare, ma che vengono dopo, dal mio punto di vista, perché prima c'è un discorso di professionista da valutare, al di là di questo il vero aspetto discutibile è che Ibrahimovic ha tradito il Milan senza essere stato un giocatore del Milan, perché appunto nel 2006 aveva deciso di passare dalla Juve al Milan, e poi in quella notte appunto di Belgrado, non quella storica della prima Coppa dei Campioni ma quella invece dell'ultima Coppa dei Campioni nel preliminare, se ne andò all'Inter proprio in quella notte, ben spalleggiato, supportato e guidato sicuramente dal suo agente senza scrupoli. Questo è l'aspetto principale. Sul resto, evidentemente, in questo momento la necessità di vincere e di ritornare a imporsi e a essere competitivi in ambito nazionale, ancora prima che europeo, è un obiettivo imprescindibile per il Milan, anche a costo di rinunciare, come dice lei, a valori che erano rappresentati diversamente da altre grandi bandiere, da altri grandi giocatori del Milan. Fabio, dalla provincia di Bari, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Senta, proprio sul tema di Ibrahimovic al Milan. Io temo che tutto sia legato alle volontà del signor Bossi, perché credo che il passaggio di Ibrahimovic al Milan sia prettamente una operazione preelettorale del presidente del Milan. Ah, quindi se si va a votare, secondo lei? Certo, se Bossi decide che non si va a votare, Ibrahimovic dov'è? Se invece si dovesse andare alle elezioni più presto, credo che il signor Berlusconi lo porti, come ho detto, prettamente per motivi politici, anche perché dal punto di vista economico sarebbe un bagno di sangue per il Milan. Quindi Bossi deve decidere entro il 31 agosto, però. È una battuta, però. È chiaro che secondo me tutta l'operazione è legata a doppio filo alla campagna elettorale eventuale di Berlusconi. Guardi, io rispondo come ho sempre risposto su questo aspetto, che è inevitabile, anche molto chiaro, insomma, che quello che il Milan ha fatto e fa in questi anni non può essere slegato e svincolato dal suo presidente e dal suo riferimento di questi ultimi 25 anni, che è Silvio Berlusconi. Inevitabilmente ci sono valutazioni complessive, non solo tecniche, ma questo è stato anche esplicitato sulla politica degli ingaggi, su altre scelte. E è possibile anche che questo tentativo di arrivare a Ibrahimovic possa avere altre sfumature, come lei dice, non sarebbe una cosa diversa, e è una cosa che ormai credo i tifosi del Milan abbiano compreso. In questo caso l'obiettivo Ibrahimovic migliorerebbe comunque la squadra, e sarebbe, anche se ci fossero altre valutazioni da fare, comunque dal punto di vista tecnico il giocatore produrrebbe qualcosa di meglio per la squadra rispetto a un'altra politica come quella degli ultimi anni, in cui non ci sono stati grandi investimenti, non sono state fatte spese particolarmente ingenti. Quindi cerchiamo di vedere anche il lato positivo, eventualmente, se vogliamo essere così critici e così analitici a tutto campo. Gennaro, dalla provincia di Napoli, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, io ho appreso da poco che Di Natale ha rifiutato la Juve. Sì, è vero. E ne sono molto contento, perché che se ne dicano e che ne dicano. Cioè questa la Juve non può sempre pretendere che qualsiasi giocatore contatti, già lo danno per scontato la Juve, cioè non lo so, ricordandosi un po' non dico tutto la vita calcistica, ma un po' gli ultimi anni, non crede che abbia tanto credito dopo tutto il male che ha fatto al calcio italiano? Chi? E non diciamo altro, avere ancora questo credito che ognuno si deve vestire Juve, si blasone, non lo so, ha fatto bene di Natale, e spero che ne siano tanti altri, come pure Carrone ha detto che i suoi giocatori non li vendrà più mai, ma solo perché non vanno alla Juve. Gennaro, io pensavo che facesse un bel discorso su Di Natale, bandiera finalmente fino alla fine della sua carriera a Udine, invece è scivolato sulla Juve. Perché Di Natale pur essendo napoletano non è venuto a Napoli l'anno scorso per una scelta di vita. Ha detto non so perché lo doveva fare per andare alla Juve. Infatti, ammiro Di Natale più per quello, questo. Sì. Poi dopo sul resto, su Garrone, lo stile Juve, eccetera, siamo andati un po' fuori tema. Per Ibrahimovic si tratta ad oltranza, abbiamo definito i conti, ci siamo spiegati, bisogna cercare di far quadrare tutto, mi fermo fino a martedì perché il mercato chiude il 31 agosto, dichiarazione dell'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, al termine della riunione odierna con il presidente del Barcellona, Sandro Rosell, e con il procuratore di Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola. Conclusasi questa riunione alle 13:46 di oggi, sia il Barcellona che il Milan hanno chiarito i rispettivi punti di vista. A questo punto le due società lavorano a una cessione definitiva quindi nessun prestito, ma la strada è ancora lunga, le probabilità che l'affare si concluda sono del 50%. Borriello non è in vendita, abbiamo una trattativa in corso per Huntelaar, ma dipende solo da lui. Finora non ha avuto ancora contatti con Ibra. Sto andando da lui. Queste le dichiarazioni di Adriano Galliani. Beh, insomma, dallo 0,01% all'1% al 50%. Siamo su una strada ben avviata per il passaggio di Ibrahimovic alla Milan nel suo ritorno in Italia, però a questo punto solo a titolo definitivo. Vedremo quale sarà la valutazione, quanto il Barça sarà disposto a perdere economicamente rispetto all'investimento complessivo l'anno scorso di 70 milioni di euro almeno, anche se da alcune parti a Madrid addirittura dicono 85 milioni di euro per lo scambio con Eto'o. Siete sempre attentissimi. Federico dice: per Diego, ma come 10 milioni di minusvalenza? Non lo vendono per 17 più bonus? In realtà le ultime che arrivano dalla Germania con le anticipazioni della Bild, che ha rivelato la sua presenza già a Wolfsburg per le visite mediche, parlavano di 15 milioni, però chiaramente siamo sempre pronti a ulteriori aggiornamenti sulle cifre adeguate e corrette dell'affare quando verrà ultimato. Invece Nicola da Colonia Veneta in provincia di Verona dice: Ibra firmò la notte prima di Milan Stella Rossa, partite in andata con il ritorno ancora da fare, quindi con il Milan non ancora qualificato per la Champions. Detto questo, il signor Ibra rimane il mercenario per l'eccellenza. Non proprio così, almeno questo non è quello che non è andata proprio così, anche se effettivamente quella fu poi, quello fu il periodo, quelle due settimane furono il periodo decisivo, però sì, comunque rimane che l'accordo prima c'era con il Milan, poi venne stracciato in pratica, anche se non era stato formalizzato, e arrivo quello con l'Inter. E poi Claudio da Verona che dice: attenti milanisti che Berlusconi non vi ascolti, poi piangerete molte lacrime, magari lasciasse e facesse un pensiero all'Hellas Verona. Rimaniamo in Veneto. Andrea da Vicenza, buon pomeriggio. Sì, salve. Prego. Niente, io volevo fare una piccola considerazione sugli allenatori. Adesso ho sentito anche, io alleno il settore giovanile, ogni anno a me capita, sempre nel mio piccolo, giocatori di qualità e meno qualità. Quando ci sono allenatori ormai arrivati, arrivano, cambiano squadra, pretendono sempre di portare il loro modulo e solo quello. Adesso la Juve è stato venduto Diego, perché era un trequartista un po' più statico, per prendere Di Natale, che farebbe le veci di Cassano. Sì. A me sembra che questi allenatori qua, quando che farebbe arrivano, quello che Cassano faceva alla Samp con Del Neri. Esatto, cioè, per cui ogni volta che vanno non adattano mai il loro, cioè quello che sanno, quello che hanno imparato dalla Serie C, dalla Serie B, a quello che hanno, ma pretendono sempre di avere gli stessi giocatori o con le stesse caratteristiche per riproporre sempre la stessa e la solita minestra. Ogni volta che non hanno queste capacità fanno un flop e vengono cacciati dopo 3-4 mesi. Sì, rimango un attimo con me, Andrea. Questo è un problema che storicamente c'è per le società che hanno esigenza di vincere e che non vincono da un po' e dunque cercano sempre di creare la situazione per vincere in fretta. All'Inter è successo per tanti anni così, le squadre venivano fatte su indicazione degli allenatori, poi l'allenatore dopo 3 mesi non era più nelle grazie del presidente oppure falliva e tutto veniva disfatto e rifatto un'altra volta con spese clamorose. Alla Juve più o meno è stato così, si torna paradossalmente alla situazione che Ranieri aveva preventivato quando gli avevano detto: guarda che stiamo per prendere Diego. Disse: va bene, ma non possiamo più giocare con questo tipo di sistema di gioco. Allora la Juve cambiò l'anno scorso, salvo subire tutte le conseguenze di questa scelta, non solo per colpa di Diego, e ora si è tornati ad affidarsi solamente alle idee del direttore generale e dell'allenatore. È giusto che sia così per legittimarli, però quello che vorrei sottoporre alla sua attenzione e chiedere la sua ultima considerazione in base anche alla sua esperienza: il problema non è che una grande squadra come la Juve è e tornerà presto a essere, non si sa in quanto tempo, breve o meno breve, ma tornerà a esserlo rapidamente. Non è il problema reale quello che una squadra di questo tipo abbia solo un modulo, un sistema di gioco? No, è che dico sempre che dove vanno pretendono sempre di avere su ogni ruolo, dove avevano fatto bene l'anno prima, stessi giocatori, cioè non gli stessi giocatori. È vero, però Del Neri ha sempre giocato così. Sempre? Però non ha mai cambiato. Nel senso, no. Ha fatto bene, quindi aveva, dice perché devo cambiare. Non ha mai avuto la cioè l'ha avuta lì alla Samp, però quando è andato a Roma aveva Totti che era più statico, sì. Infatti ha fatto male, è andato via. Al Benfica, che giocano molto più del calcio alla brasiliana che sulla velocità, sì, al Porto, per altri motivi è andato via. Cioè, dopo è tornato in Italia e ha fatto bene all'Atalanta, dove aveva gente che correva, sì, e anche lì aveva Doni dietro, anche un po' più salti, ha fatto benissimo. È andato alla Samp, ha fatto bene. Però dico, non li vedo mai, io, che cercano un po' di adattare anche le loro caratteristiche, quello che sanno, il loro credo, un po' i giocatori che hanno. Pretendono sempre sti... Invece adesso ci sono altri giocatori, che altri allenatori, per carità, faccio un nome su tutti, anche Mimmo Di Carlo, che tra l'altro conosco, perché essendo qua a Vicenza, dopo frequentando... lui è andato a Mantova, l'ha portato alla Serie C e si è adattato anche lui ogni anno un po' con quello che aveva. Adesso si è un po' imborghesito anche lui e... Non lo so, Machievo ha fatto un miracolo, a Parma aveva fatto bene, sì, sono convinto che se l'avessero tenuto si sarebbe salvato. No, va bene, grazie Andrea. Poi chiaramente dicendo questo noi diamo anche valore a quello che ha fatto Mourinho in questi anni in Italia. È arrivato, ha giocato con tutti i moduli possibili e immaginabili, aveva iniziato entrambe le stagioni all'Inter con un'idea in testa, prima il 4-3-3 e l'anno scorso il rombo, ha finito ogni singola stagione cambiando completamente l'idea di partenza. Questo vuol dire anche conoscere a fondo le caratteristiche di ogni sistema di gioco, i principi che regolano ogni sistema di gioco, saperle adeguare alle caratteristiche dei singoli giocatori e saper sfruttare dunque il loro valore individuale. Nicola dalla provincia di Vicenza, buon pomeriggio. Salve, buongiorno. Niente, io volevo intervenire semplicemente sul Milan. Allora, da semplice tifoso milanista, volevo solo dire che praticamente il Milan, anche se non so se farebbe anche, non so, 5-6 anni senza vincere nulla, però potesse un po' puntare sui giovani, anche senza andare tanto all'estero a trovare buoni giocatori, tipo così, anche adesso sta cercando Ibrahimovic, sta sempre cercando un po' giocatori che un po' vengono lasciati da parte, diciamo, anche se sono campioni, per carità. Però non so, cioè io mi ricordo in Milan quando c'era Costa Curta, Maldini, Baresi, Tassotti, cioè... È passato un po' di tempo, eh? Sì, no, è passato un po' di tempo, però sì, cioè, magari lasciar stare, non so, 6-7 anni non si vince niente, va bene, però cercare di costruire una squadra che così fra 6-7 anni può essere pronta a fare un altro ciclo così alla Sacchi, insomma, cioè... Sì, non è facile, nel senso che ci sono poi esigenze anche economiche che vanno tenute in considerazione. La Champions, solo partecipandovi, dà un grande aiuto dal punto di vista economico, una ventina di milioni almeno sono garantiti. L'Inter ha vinto l'anno scorso, leggevo oggi sulla Gazzetta dello Sport, addirittura 49 milioni di euro sono arrivati solo dalla Champions League, è più di una cessione eccellente in una sessione di calcio mercato, quindi questo va tenuto in considerazione. Ci sono giocatori che nel settore giovanile si sono imposti. Poi la tendenza generale, che non riguarda solo il Milan, ultimamente mi sembra quella di non neanche provare, non dare proprio spazio ai ragazzi, al di là di Oudamadi in questo periodo e al di là di alcuni giovani che hanno giocato in estate il Milan, ma non prendendo in considerazione solo l'esempio specifico, ci sono tanti club che hanno giocatori come Immobile, la Juventus, che comunque è stato un protagonista nel torneo primavera, nel campionato, nel torneo di Viareggio, e che però va in Serie B a Siena. È ormai raro anche che ci siano giocatori che arrivano dalla Serie B in Serie A, al di là di volta dal Cesena alla Samp e di qualche altro minimo movimento. Ormai sembra che i campionati siano separati in tutti i sensi, non solo per le carriere arbitrali, quindi c'è un problema anche culturale di dare spazio e di far sbagliare, come diceva lei Nicola da Vicenza, anche i giovani. Pietro da Milano, buon pomeriggio. Sì, salve. Io niente, sono un tifoso milanista e volevo solo dire che se dovesse arrivare Ibrahimovic, anch'io come personaggio non è che sono molto contento, però seguendo il suo discorso di prima bisogna vedere il professionista, perché è un ragazzo che comunque è ancora abbastanza giovane, è un campione, fa reparto da solo davanti. E con quei due, gli altri, Ronaldinho e Pato, sarebbe senz'altro, se Ronaldinho ci sta al gioco. No, bisogna vedere se ci stanno quelli dietro che devono correre un po' di più, ancora di più. Sì, vabbè, qualcuno adesso che ragazzo giovane c'è, ma volevo Ronaldinho ci sta a non fare la prima donna davanti, dico, perché ci sarà quell'altro che la vuole fare la prima donna, signor Ibrahimovic. E poi volevo dire un'altra cosa in merito alla vendita o all'acquisto di un giocatore che può favorire Berlusconi nelle elezioni. Dico che non è proprio assiomatico che sia infatti, così. Infatti. Perché quando ha venduto Kakà in periodo delle elezioni, infatti pare che abbia perso qualche punto. mercato. Quindi voglio dire, si vendono e si acquistano i giocatori, non credo tanto facendo quei conti lì, ma più che altro facendo i conti di una Coppa dei Campioni, di un eventuale campionato, per vincere qualcosa. Infatti. Perché se no non avrebbe venduto Kakà, che poi si è rivelato un grande affare la vendita di Kakà, visto come è andata dopo. Infatti, come quella di Shevchenko, del resto sono stati due affari che in partenza sembravano perdenti, poi si sono rivelati, come ha detto lei, eccezionali. C'è un motivo anche psicologico, non solo tecnico, dietro alle difficoltà che loro hanno avuto a Real Madrid e al Chelsea, perché al Milan i giocatori sono sempre stati curati e fatti sentire protagonisti assoluti dell'avventura e della squadra. Poi quando vanno in un altro club dove devono convivere con altri giocatori importanti o dove non riescono a sentirsi così coccolati e curati, poi vanno in crisi, vanno in difficoltà, vanno in conflitto con le altre stelle, e da lì tutto quello che ne è conseguito per Kakà e per Shevchenko. Non credo che faremo in tempo a parlare con Federico da Pisa, meno che non sia brevissimo. Prego, buon pomeriggio, velocissimo. Buon pomeriggio, grazie. E niente, cercherò di essere telegrafico. Allora, vorrei dire, evitando la polemica sterile, all'ascoltatore di prima che parlava di Natale sulla Juventus, sì, intanto di pensare alla propria squadra, dato che la Juventus è stata il capro espiatorio. Questa è polemica sterile, però andiamo avanti. Punto, fine. Volevo semplicemente dire che e credo di esprimere... Gliel'avevo già detto io, eh. Grazie, no, lo so benissimo, semplicemente un piccolo sfogo, perché quando si tocca su quel nervo diventa un po' problematico. Va bene, buon pomeriggio Federico. Secondo Andrea, invece, da milanista, lui è contento, dice: per Ibra se va male fa niente, tanto non sono soldi miei. I motori. Sport e motori. Si avvicina un weekend molto caldo per la Formula 1 e anche per il motomondiale. Queste valutazioni di Carlo Vanzini, collega di Sky Sport, sulla strategia che adotterà Lorenzo da leader del mondiale, se sarà un puro calcolatore in attesa di essere proclamato ufficialmente campione del mondo. A questo punto Lorenzo può anche accontentarsi, nel senso può iniziare a fare dei calcoli, se dovesse trovarsi in bagarre a quel punto può mettersi tranquillo in seconda posizione, a meno che la bagarre non sia con Valentino Rossi, allora no, si mette lì in gestione mondiale, se invece ne ha di più come nell'ultimo Gran Premio se ne va e prende ancora la vittoria. Questo era Carlo Vanzini nel contributo raccolto da Massimo Di Scienza, che ritroverete naturalmente come ogni domenica in Sport e Motori. Noi ci ritroviamo invece domani pomeriggio per analizzare quello che sarà emerso oggi dal sorteggio di Monte Carlo della prima fase gironi della Champions League, quello che sarà emerso questa sera dalle gare di Europa League. In bocca al lupo a Juventus, Napoli e Palermo in rigoroso ordine alfabetico, e per presentarvi l'appuntamento di domani sera sempre a Monte Carlo, la Supercoppa Europea Inter Atletico di Madrid. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Luca Rinaldi in redazione, grazie a voi per averci seguito, a risentirci su Radio 24 da Massimo Callegari. A tempo di sport.